Letture di Radio 24. Lo scrittore americano Earl Stanley Gardner è noto per aver creato il personaggio di Perry Mason. Prima di dedicarsi ai romanzi del popolare avvocato, Gardner aveva scritto alcuni racconti gialli del genere hard-boiled. Uno di questi è Il canarino da caccia, pubblicato nel 1932, che racconta della misteriosa morte di un ladro di gioielli e della sparizione della ricca refurtiva. Lester Late scrutò di sottecchi il suo domestico tra il fumo azzurrognolo della sigaretta e dietro le palpebre socchiuse balenò un guizzo di curiosità. «L'hanno trovato morto, Shuttle?» Il domestico assentì gravemente. «Morto stecchito, signore. Stando al tuo racconto, la vittima, un ladro internazionale di gioielli, si era imbarcato sulla nave con un bel gruzzolo di gemme rubate, o almeno tutto porta a credere che le avesse con sé. A bordo le autorità della dogana avevano però infiltrato uno dei loro uomini, camuffato da cameriere di cabina. La gente aveva scoperto che uno dei bauli da passeggero aveva un doppio fondo, che si apriva allo scattare di una serratura nascosta. Evidentemente il ladro si è reso conto che il finto cameriere stava per smascherarlo. Così, dopo averlo attirato con l'inganno dietro il magazzino dei bagagli, l'ha tramortito, legato e imbavagliato. All'arrivo in porto è sceso a terra. Ha superato senza difficoltà i controlli della dogana e ha preso una stanza al Palace Hotel. Sempre stando alle tue parole, l'agente sotto copertura ha allertato la polizia e le autorità doganali non appena è riuscito a liberarsi. Le forze dell'ordine si sono precipitate subito al Palace Hotel e lì, in una delle stanze, hanno trovato il ladro morto. Mi pare ovvio supporre che sia stato ucciso, non credi? Shuttle assentì mellifluo. Fatto sta, signore, che l'uomo è stato davvero ucciso, con una pugnalata al cuore. Lester Late sbuffò un anello di fumo e lo osservò dissolversi nell'aria. Infine bofonchiò: segni di colluttazione? Il domestico abbassò la voce in un sussurro, quasi a rivelare un segreto. È questo il mistero, signore. La vittima era legata mani e piedi a una sedia, con un bavaglio alla bocca. Soltanto dopo gli hanno inferto la pugnalata dritta al cuore. Punto sulla curiosità, Lester Late strinse gli occhi in una fessura. «Ah, davvero?» esclamò con il tono di un giocatore di scacchi che studia la prossima mossa. «E il baule?» Il sussurro del domestico si fece colmo di suspense. «Il baule, signore, era scomparso!» Lester Late fece spallucce. «Beh, dovrà pure esserci una spiegazione. In genere i bauli non scompaiono nel nulla né prendono il volo. Altri indizi nelle mani degli inquirenti, Shuttle? Si è capito come l'assassino è riuscito a intrufolarsi nella camera della vittima? Dalla scala antincendio, passando dalla finestra. La scala antincendio? Proprio così, signore. La camera era chiusa dall'interno con la chiave ancora nella serratura, mentre la finestra che si affaccia sulla scala di sicurezza era spalancata. Sul telaio di legno la polizia ha rilevato tracce evidenti di efferazione. E sugli scalini esterni ha scoperto alcune impronte, lasciate da scarpe con la suola di gomma. Gettato il mozzicone, Late prese di tasca l'astuccio d'argento e ne trasse svagato un'altra sigaretta, che tamburellò sopra il coperchio. Strano che l'assassino sia riuscito a lavorare così alla svelta. E strano che il ladro, tra tutte le camere dell'hotel, ne abbia voluta una che dà sulla scala di sicurezza. Anche se questo spiega la scomparsa del baule. L'uomo... L'omicida, intendo. L'ha trasportato giù per la scala antincendio, congetturò Late. Non fece però in tempo a terminare la frase che il domestico scuoteva già il capo. No, signore, si sbaglia. Innanzitutto, mi sembra più che logico che la stanza di Cogley si affacciasse sulla scala antincendio. Le rammento infatti che era stato l'assassino a prenotarla. In secondo luogo, è da escludere che il baule sia uscito da quella parte. Anche se più piccolo dei comuni bauli da viaggio, è comunque troppo grosso per passare da una finestra tanto stretta. Late, prima disteso sulla chaise longue, si tirò a sedere e domandò: «Un momento, è stato l'assassino a prenotare la camera?» «Sì, signore. Deve sapere che un tale Frank Millsap, qualche giorno prima dell'omicidio, ha telefonato al Palace per prenotare due camere che fossero comunicanti e si trovassero al quarto piano. Sembrava molto pratico dell'hotel perché ha saputo indicare quali facessero al caso suo, la 405 e la 407. Per quest'ultima ha fornito anche il nominativo dell'ospite, il signor Cogley. Adesso è tutto chiaro. L'assassino voleva che la vittima occupasse una stanza che dava sulla scala antincendio. Lì per lì, comunque, nessuno ci ha visto nulla di sospetto che all'arrivo di Kogle l'impiegato alla reception gli ha assegnato subito la 407, senza neppure chiedere conferma della prenotazione. Era talmente convinto che fosse tutto in regola che Lester Leight proruppe in una risata. Questa sarà la ricostruzione degli inquirenti. Questa è la ricostruzione degli inquirenti, rispose tutto orgoglioso Shuttle. Leight alzò un sopracciglio. Ah, davvero? Noto che sei ben informato sui fatti. È tutto riportato sui quotidiani, si affrettò a precisare il domestico. Certo, certo, mormorò Lester Leight. E secondo i quotidiani, chi sarebbe questo Frank Millsap? Un ricettatore, forse. Uno che può piazzare grosse partite di gioielli. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Earl Stanley Gardner, Il canarino da caccia, Mursia Editore, 130 pagine, 9 euro. Letture di Radio 24. Oltre a scrivere romanzi di successo ambientati nell'alta società newyorkese del primo Novecento, come La città della gioia o L'età dell'innocenza, Edith Wharton pubblicò anche diverse raccolte di storie di fantasmi. Tra queste si colloca Il giorno dei morti, che la casa editrice Coniglio propone ora all'interno della collana Racconti di fantasmi. Protagonista è Sarah Claiborne, una donna di mezza età che dopo la morte del marito decide di continuare a vivere nella grande e isolata villa del Connecticut. Una sera, dopo aver salutato il personale di servizio, si prepara ad una notte difficile, dato che quella mattina si era slogata una caviglia. All'inizio il piede non le faceva molto male, ma verso sera la signora Claiborne cominciò a soffrire. Il sonno, una volta svanito, non ritorna e le lunghe ore buie passavano sempre più lentamente. Se solo potessi muovere questa gamba! Se ne stava distesa, immobile, tendendo l'orecchio per udire i primi passi della servitù. Fu tentata di suonare il campanello per chiamare Agnes, ma si trattenne. Ecco l'orologio della scuderia che batteva le ore. Com'erano forti i rintocchi nel silenzio della campagna ammantata di neve. 1, 2, 3, 4, 5. Ancora 3 ore e un quarto prima di poter sperare che la maniglia della porta girasse. Poco dopo, scivolò in un sonno leggero nonostante si trovasse in una posizione assai scomoda. Un suono la destò. Di nuovo l'orologio della scuderia. Si mise in ascolto, ma la stanza era ancora immersa in un buio fitto e risuonarono soltanto 6 colpi. Fissò a lungo la finestra buia. Finalmente scorse un fioco barlume attraverso le imposte. Poco a poco, gli oggetti tra il letto e la finestra parvero tornare di nuovo al loro posto dopo chissà quali vagabondaggi notturni. La signora Claiborne ebbe quasi l'impressione di vedere un tavolinetto dalle lunghe gambe scivolare frettolosamente nel suo angolo. La nottataccia doveva averle acceso la fantasia, perché una simile assurdità come quella dei mobili non le era neppure mai passata per la testa. Dopo un altro intervallo che parve un'eternità, l'orologio della scuderia batté le 8, soltanto un altro quarto d'ora. La signora Claiborne attese. Dopo mezz'ora, si decise ad allungare la mano verso il campanello elettrico a capo del letto. Ma Agnes non comparve e dopo un notevole lasso di tempo la signora Claiborne suonò di nuovo. Suonò una volta, suonò 2 volte, 3 volte. Non si presentò nessuno. Attese ancora. Erano ormai 9 quando fu costretta ad ammettere con se stessa che in casa doveva essere successo qualcosa di strano. La signora Claiborne si guardò intorno tendendo l'orecchio. Silenzio. Un profondo silenzio notturno in una casa illuminata dal sole. Era strano, davvero molto strano. Si trascinò lungo il corridoio fino all'apparecchio telefonico. Quando sganciò il ricevitore, si accorse che la mano le tremava. Chiamò la dispensa, chiamò la stanza del maggiordomo. Nessuna risposta. Riprovò a chiamare. Silenzio. Ancora silenzio. Sempre silenzio. Un silenzio che sembrava accumularsi come la neve sul tetto e nelle grondaie. Silenzio. Quante persone di sua conoscenza avevano una minima idea di cosa fosse il silenzio, di come fosse assordante quando lo si ascoltava davvero? Il cuore si mise a martellarle nel petto. Arrivata alla porta di Agnes, la signora Claiborne riprese fiato e bussò. La stanza era buia e molto fredda. Si diresse verso la finestra e spalancò le imposte, poi girò lentamente lo sguardo all'intorno, con un vago timore di ciò che avrebbe potuto vedere. La camera era vuota, ma non fu tanto questo a spaventarla quanto il perfetto ordine che vi regnava. La signora Claiborne si appoggiò per un momento alla parete, poi attraversò la stanza e aprì l'armadio. Sul ripiano superiore c'erano i pochi cappelli fuori moda dell'anziana domestica rimodellati da quelli smessi della padrona. La signora Claiborne li conosceva tutti e si accorse subito che ne mancava uno. La donna quindi era uscita. E senza dubbio era uscita la sera prima, perché in giro non si vedeva un indumento, il lavabo era in ordine e il letto intatto. Agnes, che non metteva mai piede fuori di casa dopo il tramonto, aveva disertato White Gates in una nevosa serata autunnale. Perché mai era uscita? E per andare dove? Il gelido silenzio della casa, quel silenzio senza risposte, opprimeva sempre più la signora Claiborne. Era esattamente questo ad agghiacciarla. La sensazione che non ci fosse limite a quel silenzio, nessun margine, niente di niente. Ormai era giunta in fondo alla scala e stava zoppicando attraverso il vestibolo diretta al salotto. Qualunque cosa avesse trovato lì dentro sarebbe stata muta e senza vita, ne era certa. Doveva affrontare la verità. Si guardò intorno. In ogni stanza il mobilio era in perfetto ordine. Il suo terrore latente parve assumere un nuovo aspetto. Era come se un liquido ghiacciato le scorresse per ogni vena, formando una pozza intorno al cuore. Adesso comprendeva di non avere mai saputo prima cosa fosse la paura, perché ora provava una sensazione del tutto diversa. Il pomeriggio passò in una nebbia di dolore fisico, da cui di tanto in tanto emergeva una tenebrosa paura, quella di giacere così, dimenticata da tutti, finché non fosse morta di freddo, di terrore e di solitudine. Ormai, infatti, non potevano più esserci dubbi. La casa era vuota, assolutamente vuota, dalla soffitta alle cantine. Sapeva per certo che era così, anche se non riusciva a capire il perché. Tuttavia, persisteva la sensazione che la spiegazione di tutto si celasse in quello strano silenzio. Il silenzio che l'aveva seguita passo passo in tutti i suoi spostamenti e che ora si stendeva su di lei simile a un lenzuolo funebre. Era sicura che la vicinanza di qualsiasi altro essere umano, per quanto muta e segreta, avrebbe in qualche modo incrinato la sostanza di quel silenzio, anzi, lo avrebbe fatto volare in pezzi, come quando si lancia un sasso contro una lastra di vetro. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Edith Wharton, Il giorno dei morti. Coniglio Editore, 104 pagine, 10,50 euro.